Tensione evolutiva. Ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0 presso Blu Radio Veneto. Io sono Giovanni Garavello e qui con me c'è Don Daniele Longato. Oggi trattiamo di un argomento molto interessante: il potere delle emozioni. Come imparare a gestirle per una vita felice? Abbiamo un ospite straordinario. Chi sei? Sono Michele Vigentin, lavoro presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Padova e mi occupo della formazione degli insegnanti e dei genitori. Ah, abbiamo un graditissimo ospite, un preside. Pensa che io avevo terrore dei miei presidi quando ero a scuola. Però andiamo subito ad una domanda molto interessante. Perché parlare di emozioni oggi, Michele? Anzitutto perché tensione evolutiva significa vita. E le emozioni sono la vita delle persone. Le emozioni esistono ed è per questo che ne parliamo. Se non c'è tensione, vuol dire che non ci sono più emozioni. Le emozioni ci influenzano, ci informano, ci danno soprattutto messaggi rispetto a come ci sentiamo e a come stiamo guidando la nostra vita. Parlare di emozioni soprattutto perché ci sono anche tanti falsi miti sulle emozioni e insieme potremmo vederne alcuni. Quindi stai dicendo che attorno anche a questo argomento molto interessante ci sono anche dei falsi miti, anche un po' dei pensieri metropolitani, possiamo chiamarli così. Ma proprio a riguardo di questo argomento, Don Daniele avrebbe una domanda da farti. Volevo chiederti, mi viene in mente un luogo affollato con mille voci e devo riuscire a distinguere la voce della persona che amo, che mi sta cercando. E allora ti chiedo, ma come facciamo a distinguere le emozioni positive da quelle negative? Eccolo qua. E questo è il primo grande falso mito intorno alle emozioni. Non esistono emozioni negative o positive. Ah. Esistono emozioni piacevoli o spiacevoli. Tutte le emozioni, potremmo dire, sono positive. Tutte le emozioni sono funzionali alla vita delle persone. Un altro falso mito rispetto alle emozioni è che le emozioni devono essere vinte, combattute. Combattute, sì. Devono essere controllate. Controllate, vero? No, le emozioni non si possono controllare. Le emozioni si possono navigare. Guidare come una nave. E questo è un argomento molto interessante che approfondiremo dopo la musica. A dopo. Mary è nuovamente sola e senza dire una parola esce con la faccia incontro al vento. Cambia ancora direzione, canta una canzone questa sera. Candy intanto è già partita e verso un'altra via d'uscita corre con il cellulare spento e testardamente spera di trovarsi ancora tutta intera. Ognuno sente tanto dolore quando si piega in sé, non vede niente, poi una luce passa le inferriate, la notte delle fate. Donna un paio d'ali chiuse dentro sé, pronta a certe ascese sconfinate, la notte delle fate. Molle incline alle cadute, nelle stanze sconosciute, chiede indietro un po' di sentimento, angoli di tenerezza dentro a una carezza quasi vera. Ognuno sente poco calore quando si piega in sé, ma lentamente un taglio di luce annuncia un'altra estate, la notte delle fate. donna un paio d'ali chiuse dentro sé e sogna ancora vette inesplorate la notte delle fate. Si piega in sé, ma lentamente un taglio di luce annuncia un'altra estate, la notte delle fate. Ogni donna ha un paio d'ali chiuse dentro sé, pronta a certe ascese sconfinate. Il 7 di marzo inizieranno le Paralimpiadi. Sono appena terminate le Olimpiadi ufficiali, cosiddette. Mentre il 7 di marzo, appunto, inizieranno le Paralimpiadi, cioè le Olimpiadi per i ragazzi disabili. A me affascina sempre molto vedere come ragazzi in grosse difficoltà riescono a raggiungere dei risultati straordinari. Addirittura c'è un ciclista che riesce a raggiungere quasi il record dell'ora dei ciclisti normali. Qui si parla ovviamente di Olimpiadi invernali, per cui immaginiamo anche questi ragazzi cosa vuol dire sciare senza un arto. E a proposito di questo, il dottor Michele ha una storia da raccontarci, molto interessante. È la storia di Francesco. Pomeriggio camminava vicino a un campo da baseball insieme a suo papà. Francesco non è un bambino che riesce a camminare come i suoi compagni, non riesce neanche a pensare come i suoi compagni. Avvicinandosi al campo da baseball dove i suoi compagni stavano giocando una partita, chiede al papà di entrare. E papà, con un po' di timore, chiede ai suoi compagni di classe che si stavano allenando e può giocare Francesco. Sì, Francesco poteva giocare. Stranamente, perché stavano facendo una partita, lo accolgono dentro il campo, gli indicano la panchina, lo fanno sedere, lo aiutano perché non riesce a correre, a camminare come i suoi compagni. Stavano perdendo 15-1. 15-1, pensa. È per questo che l'hanno accettato. Eppure 15-4, 15-5, 15-8, papà cominciava a sudare freddo, 15-10, 15-12, 15-14, 15-15. Avrebbero mantenuto la promessa? Lo avrebbero fatto giocare perché toccava a lui. Sì, lo prendono, lo accompagnano, lo portano nel posto dove deve prendere in mano la mazza da baseball, gli danno la mazza, non riesce neanche a tenerla in mano. Il giocatore della squadra avversaria prende la palla, lancia, niente da fare, Francesco non riesce neanche a vederla la pallina. Allora un suo compagno si avvicina, più grande di lui, lo avvolge, gli si mette dietro, gli prende le mani, le mette dentro le sue, gli alza la mazza da baseball e con un occhio di sfida guarda l'avversario e gli dice: tira adesso. Se lo prende proprio dentro, lo abbraccia, lo avvolge. L'altro tira la palla, riescono a prenderla, la palla va vicino e tutti cominciano a gridare: corri Francesco, e Francesco comincia a correre per andare in prima base. Il giocatore della squadra avversaria prende la palla per eliminarlo e succede quello che non è mai successo. Invece di tirare la palla in prima base, la tira più lontano che può, per dare la possibilità a Francesco di arrivare, e tutti continuano a gridare: corri Francesco. Il giocatore avversario va a prendere la palla che era stata lanciata lontano per eliminare Francesco in seconda base, e invece di eliminarlo la tira più lontano che può. e si crea all'interno di quel diamante quello che non si è mai visto, e cioè una nuvola di ragazzini che corrono dietro a un ragazzo che fa fatica a pensare, che fa fatica a correre, e lo spingono con le loro grida, e ognuno che prende la palla la tira più lontano che può per dargli la possibilità di raggiungere e segnare il punto della vittoria della sua squadra, e lo segna emozionandosi, ma lo segna perché i suoi compagni si sono emozionati, e lo segna anche perché nel sentire questa storia educatori, insegnanti si emozionano. Ecco, le emozioni sono il motore della vita delle nostre società, ma soprattutto sono contagiose. Se avessimo potuto con una risonanza magnetica registrare quello che è accaduto nella testa di Francesco, nella testa dei suoi compagni, ma anche nella testa dei radioascoltatori, ci sarebbero delle macchie arancioni che si sono accese. E sono quelle macchie arancioni che indicano che quando noi ci emozioniamo siamo vivi. Quindi, se io dovessi chiederti in una battuta che cosa sono le emozioni? Sono risposte naturali, immediate, ad uno stimolo che ci colpisce. Risposte immediate e naturali ad uno stimolo che ci colpisce. Vai, Daniele. Chiacchierando tra amici ultimamente, qualcuno si chiedeva se oggigiorno non ci sia già troppa adrenalina in giro. Allora mi sento di chiederti, ma parlando di emozioni, è così importante la questione quantità? Ma è proprio per questo che noi parliamo di emozioni, del potere delle emozioni. Perché emozioni non significa sensazioni. Emozioni non significa soprattutto eccitazione. L'adrenalina, così come nel linguaggio comune noi, certo, è un'espressione che utilizziamo per indicare qualcuno di particolarmente attivato, eccitato, sì. L'adrenalina è un neurotrasmettitore che serve per poter fuggire, per poter reagire, ma il problema non è troppa o troppo poca adrenalina, il problema è guidare l'energia che prende il sopravvento nella nostra vita. Qui non si tratta di più o meno adrenalina, ma si tratta di capire che ogni emozione ha una sua dimensione cognitiva, e la dimensione cognitiva che accompagna le emozioni è funzionale proprio a fare in modo che l'emozione sia evolutiva. E quindi è come se avessimo dentro la nostra mente una centrale chimica che espande qualcosa che c'è dentro la nostra mente, però tu ci stai dicendo che questa può essere guidata, mentre io ho sentito anche dire così en passant che uno dei luoghi più a rischio per la salute umana è proprio la scuola, e ne tratteremo dopo la musica. A dopo. Gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face. 'Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just come from. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. said, baby, so baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ. Ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0. Stiamo trattando di emozioni e di come fare ad usare appunto questa energia chimica, chiamiamo, dentro di noi per vivere meglio. Qui in studio abbiamo Don Daniele Longato, che ci accompagna nel nostro percorso, e il dottor Michele Visentin. E prima avevo chiuso il precedente blocco dicendo appunto di una notizia che ho sentito così nell'aria, ma si è letta appunto in alcuni giornali, che la scuola è uno dei luoghi in cui la salute è maggiormente a rischio. Quindi ti chiedo, dottor Michele, a scuola come si può fare ad educare l'intelligenza emotiva? Fa impressione, la scuola, che dovrebbe essere il luogo più sicuro per la vita delle persone, è anche uno dei luoghi in cui le persone rischiano di ammalarsi. Pensa. Fa impressione. Colpisce. Perché? Ma perché è un luogo intenso, saturo di emozioni. Quindi non è che di per sé la scuola sia l'anticamera della malattia o del disagio, ma è che la scuola è talmente significativa, è talmente impattante nella vita dei ragazzi, che se le cose funzionano la scuola diventa vitalizzante, ma se c'è qualcosa che si rompe nella relazione, la scuola diventa fortemente penalizzante per la salute anche delle persone. Allora, come aiutare i ragazzi, gli insegnanti, a fare in modo che la scuola diventi un ambiente utile per la crescita di tutti? Tre domande guida. Che cosa stiamo provando? Che un insegnante, un coordinatore, anche un preside ogni tanto chieda ai suoi studenti: ma come vi sentite? Come state? Come state? Primo, che cosa sto provando? Secondo, che cosa sto pensando? Perché sono i pensieri che ci fanno emozionare e le emozioni ci fanno comportare. Se io voglio cambiare un comportamento, devo cambiare il pensiero che attiva quell'emozione. Tre, che cosa voglio essere? Che cosa voglio essere? Certo, perché le emozioni non solo sono cognitivamente dense, ma anche sono determinate da valori. Per cui la consapevolezza, la capacità di gestire la vita emotiva è un senso di scopo. Come la scuola può aiutare i ragazzi rendendoli più consapevoli, aiutandoli a guidare le loro emozioni e dando loro indicazioni rispetto a come vogliono orientare la loro vita. Quindi dando proprio delle indicazioni precise su come orientare la loro vita. Don Daniele ha una domanda da farti. Vedo che c'è un interesse ultimamente, ma forse c'è sempre stato, nel cercare qualcosa che ci aiuti a stare bene, il cosiddetto benessere. Allora ti voglio chiedere, per vivere meglio, come possiamo usarle queste emozioni? Per vivere meglio, per vivere nel bene. Nel bene, sì. L'intelligenza emotiva diventa, per quello che abbiamo detto, fondamentale. L'intelligenza emotiva degli insegnanti anzitutto. Ah. Come aiutare i ragazzi a crescere dal punto di vista della loro vita emotiva? Beh, anzitutto lavorando con gli adulti che stanno con loro. Proviamo a pensare ad una cosa semplicissima: guardare negli occhi i nostri studenti. Guardare negli occhi i nostri studenti. Sorridere ai nostri studenti. Esprimere considerazione positiva nei confronti dei nostri ragazzi. Chiamare per nome i nostri ragazzi. Allora qui non si tratta di questioni difficili da comprendere, si tratta di tornare all'ABC della relazione umana. Chiamare per nome, sorridere, guardare negli occhi, esprimere considerazione positiva. Queste sono le basi dell'intelligenza emotiva a scuola. Sicuramente i miei studenti si dimenticheranno di quello che ho detto, ma non di come li ho fatti sentire. E quello che ricorderanno dipende fortemente da come li ho fatti sentire. Allora, facciamo in modo che nelle nostre scuole la struttura narrativa, che è quella che poi produce emozioni, sia una struttura narrativa che favorisce l'aggancio a contenuti, a idee, a pensieri. Le nostre scuole rischiano di essere anaffettive. Cioè senza emozioni addirittura? È certo, perché sembra quasi che l'emozione non c'entri niente con quello che la scuola deve fare, cioè istruire, passare informazioni, conoscenze. E questo è un altro mito da sfatare. Mm-hmm. L'opposizione emozione-ragione. Ragione. Invece non c'è alcuna opposizione, perché ogni emozione è un pensiero. Ogni emozione è un pensiero. È certo, perché noi non possiamo emozionarci senza pensare. Anzi, ci emozioniamo perché pensiamo. Ci emozioniamo perché pensiamo. È certo. Se vogliamo migliorare la vita emotiva, dobbiamo cambiare i nostri pensieri. Cambiare i nostri pensieri. La scuola è il luogo più adatto, direi il luogo più pertinente per aiutare i ragazzi a pensare in modo tale da emozionarsi in modo positivo. Si potrebbero fare mille esempi da questo punto di vista. Sì. Perché i ragazzi iniziano... Tu che vedi i ragazzi tutti i giorni, prova a farci un esempio rispetto a questo. I ragazzi si comportano a volte in modo che li mette a rischio per quanto riguarda la salute. Penso al problema dell'abuso di sostanze, penso all'abuso dell'alcol o anche relazioni tra di loro che mettono a rischio i loro rapporti. Noi di solito cerchiamo di cambiare il comportamento delle persone chiedendo loro di cambiare comportamento. È vero. E invece noi dobbiamo aiutare i ragazzi ad associare a quel comportamento l'emozione che provano e ad associare a quell'emozione il pensiero che l'ha attivata. E quindi dobbiamo aiutare i ragazzi a cambiare il modo in cui pensano, il modo in cui pensano la situazione che è in discussione in quel momento. Se per un ragazzo è essere, scusate, ma sfigato, certo, fumare, sì, smetterà di fumare perché pensa diversamente. Diversamente. Molto interessante l'argomento, ce ne sarebbe da parlare per 25 ore, ma a questo punto lasciamo la linea alla musica. A dopo! Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so. Sento accanto a te. solo lui lo sa quando e come finirà la tua sofferenza e il tuo lamento. C'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nel evolutiva. Ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0. Siamo qui col dottor Michele Visentin e con Don Daniele Longato. Oggi trattiamo di emozioni e di come possono essere usate per vivere meglio, sia per adulti che per piccini. Nel blocco precedente trattavamo appunto di scuola, trattavamo di salute all'interno della scuola. E una cosa che mi ha impressionato molto, che ha detto il dottor Michele Visentin, è che anche a scuola ci si può emozionare, non solo imparare, ma anche ci si può emozionare all'interno della scuola. Quindi mi viene subito una domanda da fare al dottor Michele Visentin. Quali consigli ci puoi dare per vivere le emozioni, però senza lasciarsi dominare? Mi vengono in mente 5 passi che un ragazzo, una ragazza, ma anche un adulto, un educatore, potrebbero fare per allenarsi a vivere la propria vita emotiva. Il primo passo, ricordarsi che l'emozione è sempre un messaggio che ci serve per capire come agire. Facciamo un esempio: la disperazione potrebbe aiutarmi a capire che forse devo cambiare o rimodulare alcuni obiettivi. La vergogna potrebbe dirmi che qualche osservazione che proviene da un mio compagno minaccia un po' la mia autostima e che dovrei forse rafforzarla. Pensa. La delusione forse mi fa rivedere le mie aspettative. Pensiamo all'ansia. Forse mi sta dicendo che posso fare qualche cosa per conoscere meglio ciò che incontrerò, perché l'ansia spesso è anticipatoria. Insomma, le emozioni mi attraggono, mi respingono. Devo cercare di fare pace con le mie emozioni. Fare pace con le mie emozioni. Secondo passo, datti il tempo per capire che cosa stai provando. Ah, bellissima. Potremmo pentirci a volte perché reagiamo con impulsività. Terzo passo, cerca di essere onesto con te stesso. Cerca di essere onesto con te stesso. Non cercare uno stato d'animo se in realtà tu stai provando l'esatto contrario. Se sei deluso, è la delusione con la quale devi fare i conti. Terzo passo, emoziona gli altri. Emoziona gli altri. Fai almeno un complimento, esprimi qualche cosa che può far star bene gli altri. Noi stiamo bene quando le persone ci sorridono. Ecco perché prima abbiamo detto sorridi quando parli ai tuoi studenti. L'ultimo passo, mettiti nei panni degli altri. Cerca di sentire che cosa gli altri stanno provando. È quello che nel nostro lavoro si chiama mentalizzazione. Mentalizzazione. Prova, sì, a leggere la mente di un'altra persona. Cosa c'entra con le emozioni? Ma abbiamo detto che le emozioni sono delle risposte che dipendono dai nostri pensieri. Allora, leggere la mente di un'altra persona vuol dire entrare nella sua vita emotiva. Nella sua vita emozionale. Chiediti che cosa sta provando la persona che ti parla. Bellissimo. Sono 5 passi, semplici, semplici. Emozioni sono messaggi. Datti tempo, sii onesto, emoziona gli altri, ascoltali. Ascoltali, bellissimo. Mi prenderò assolutamente il tuo libro, anzi lo ricordo, Ce la farò, edizioni Il Messaggero di Padova. Don Daniele ha un'altra domanda da farti. Michele, in questi giorni avrai sentito parlare di alcuni fatti che sono capitati nella nostra zona della Bassa Padovana, fatti che hanno coinvolto alcuni adolescenti con scelte definitive anche gravi, molto tristi. E noi educatori, formatori, siamo rimasti un po' così in difficoltà in questi giorni, provando a comprendere un po' queste dinamiche, e ti volevo chiedere un consiglio, una tua considerazione, provando a capire come siamo passati forse da un periodo in cui le emozioni andavano frenate, andavano gestite, controllate al punto quasi di spegnerle, a un'epoca invece dove soprattutto gli adolescenti nei social network cercano di esprimerle, di condividerle in maniera forse anche esagerata. Puoi regalarci un consiglio, una tua considerazione? Consiglio in questi casi che ognuno entri dentro se stesso e si riappropri della responsabilità che ha tutte le volte che intercetta un altro essere umano. Abbiamo parlato di ascolto come il quinto passo per allenarci alle emozioni. Dobbiamo tutti tornare ad ascoltare. Ascoltare. Quando entriamo in relazione con le persone, direi ad ascoltarci. Io ricevo molte lettere, che poi sono le lettere che hanno dato, come dire, vita al testo Ce la farò. Stefania, 13 anni, mi dice: mi sento sola, mi sento molto triste. Tiziana, 12 anni, mi sento triste, non so più che cosa fare. Sara, 14 anni, mi sento sola, inutile. Carla, 16 anni, mi sento soffocare. Mi sento soffocare. Mi sento sotterrata. Allora, se io metto insieme quello che i ragazzi mi stanno dicendo, ci sentiamo soli e non sappiamo se ce la faremo. Terribile nell'era della comunicazione, se ci pensi. È terribile, perché noi abbiamo aumentato la nostra capacità di connetterci, ma nessuno ci ha spiegato perché dovremmo connetterci. Bellissimo. Grazie. Non so come chiudere questa trasmissione, perché ce ne sarebbe da parlare all'infinito. Ringrazio il grandissimo Michele Visentin che ci ha dato qualcosa di suo, del suo cuore, e io non faccio altro che rimandarvi al suo sito, da lì riceverai altre domande e preziose lettere. www.michelevisentin.it. Poi, se potete, può esservi molto utile prendere il suo libro Ce la farò, edizioni Il Messaggero. Io ti ringrazio molto, è stato molto emozionante, molto bello anche dal punto di vista radiofonico, ti faccio i miei complimenti. Se vuoi salutare? Ma io saluto semplicemente tutti coloro che sanno emozionarsi e che ci aiutano ad emozionarci. E io vorrei che chiudesse la trasmissione in modo inaspettato, non il sottoscritto come succede di solito, ma Michele Visentin. Con un ragazzo che mi chiede: ce la farò? Non lo so, gli ho risposto, ma ti prometto che ti aiuterò e che ti ascolterò. Ce la farò, con il punto esclamativo nel suo cuore, imparò a dirsi. Ce la farò con il punto esclamativo. A lunedì prossimo, alla prossima, arrivederci. Tensione evolutiva, tensione evolutiva, tensione evolutiva.